Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. 13 marzo 2002. Raffaele Ciriello, 42 anni, un fotografo freelance tra i più conosciuti e stimati nel nostro paese. È specializzato in reportage di attualità internazionale. Quel giorno si trova a Ramallah, in Cisgiordania. Porta con sé la macchina fotografica e la videocamera digitale e con quella minuscola telecamera filma il suo ultimo reportage, praticamente la sua morte in diretta. Il video di Raffaele Ciriello si apre con le immagini di alcuni palestinesi armati di Kalashnikov. Sono dislocati in una via secondaria. Parlano ad alta voce, si chiamano uno con l'altro. La telecamera del fotoreporter entra nei particolari delle persone: le mani, gli occhi, i volti, i vestiti, le armi. In sottofondo si sente il rumore dei cingolati dei carri armati israeliani. Sono piazzati in una via vicina, a pochi metri. Ciriello si avvicina al crocicchio. Il rumore dei tanchi israeliani diventa ancora più assordante. Ciriello si sposta leggermente. Si sporge pochi centimetri in avanti. L'occhio elettronico si sposta. Ciriello si trova scoperto per meno di un secondo e proprio in quel preciso istante si sente una raffica. Ciriello cade in terra con la sua videocamera. Paola Ciriello, vedova del fotografo, racconta così le ultime immagini di Raffaele prima di cadere in terra, colpito a morte. Raffaele e Amedeo Ricucci e Norberto Sanna sono diretti in centro, hanno visto questo gruppo di palestinesi, 4-5, e hanno cominciato a documentare ciò che stavano facendo. Dietro un angolo i palestinesi hanno visto un tank israeliano in fondo alla strada, quindi a 200 metri circa di distanza, così sembra sempre, e un palestinese ha sparato in due o tre colpi in direzione del tank. Amedeo Ricucci, inviato del TG1 a Ramallah, si trova in quel momento poco accanto al corpo senza vita di Raffaele Ciriello. È successo che da Talamo eravamo in centro, gli scontri si sentivano abbastanza lontani perché comunque da quello che si sapeva erano attorno ai due campi di profughi di Alamari e di Kazura, quindi un po' distante da dove eravamo noi. Noi eravamo in centro di Ramallah, abbiamo preso una stradina laterale che abbiamo sentito delle voci concitate, c'erano dei combattenti palestinesi con armati di fucile che stavano parlando fra di loro e correvano, siamo andati un attimo dietro ma non si sparava, non si combatteva in quella zona lì. Improvvisamente ha spuntato un carro armato dietro un angolo a 150 metri, ma sembrava andarsi in un'altra direzione. Noi l'abbiamo filmato, poi ho detto a Raffaele che c'era il carro armato, che bisogna fare un'altra attenzione. Raffaele si è messo dietro un angolo a filmare con la telecamera che aveva, dal carro armato è partita una raffica e Raffaele è caduto a un metro. L'abbiamo tirato via da lì, è arrivata la macchina palestinese, un civile, l'abbiamo portato in ospedale, i medici hanno capito che era una cosa molto seria, abbiamo provato ad operarlo e non c'è stato niente da fare, c'aveva troppi colpi nell'addome. Raffaele Ciriello viene dalla Lucania. Il nostro corrispondente della Basilicata, Gennaro Grimolizzi, ha scritto per il Giallo e Nero un ritratto del fotografo ucciso a Ramallah. Un chirurgo plastico al servizio dell'informazione, che con la sua macchina fotografica ha fatto conoscere le atrocità di tanti e dimenticati conflitti armati. Somalia, Sierra Leone, Ruanda, Afghanistan, Kosovo, territori palestinesi, sono state queste alcune zone visitate e fatte conoscere da Raffaele Ciriello con i suoi memorabili scatti, pubblicati non solo in Italia. Indimenticabili rimarranno le foto che lo ritraggono con Yasser Arafat proprio nel quartier generale di Ramallah e con Maria Grazia Cutuli durante un viaggio in aereo, in un momento di spensierata tranquillità. Nel marzo di 4 anni fa, quando fu ucciso, Ciriello collaborava con il Corriere della Sera. Raffaele Ciriello esordisce con la fotografia sportiva. Segue le edizioni 1991 e 92 della Parigi-Dakar. Nel 1993 il reporter si trova nella Somalia devastata dalla siccità e dalla guerra civile, con i militari italiani della missione Restore Hope. In Somalia riceve il suo battesimo del fuoco. Ritrae insieme gli inviati della RAI Ilaria Alpi e Miran Rovatin poco prima della barbara uccisione. Poi si reca in Ruanda, Sierra Leone, ex Jugoslavia, Albania e Kosovo. E proprio in Kosovo, nel 1999, Raffaele Ciriello sperimenta sul campo la tecnica del videoreportage. Lavora con una primordiale camera digitale. Ecco, sta parlando il generale Cavigioso, lungo il confine tra il Kosovo e la Serbia. Il militare ha convocato una conferenza stampa e Ciriello è uno dei giornalisti presenti. Dopo l'esperienza in Kosovo, Ciriello si sposta poi in Eritrea, in Iran. I suoi reportage dalle zone calde del mondo trovano spazio sui maggiori giornali di tutto il mondo, dal Corriere della Sera al New York Times. Nel marzo 2002, Raffaele Ciriello si trova a Ramallah, in Cisgiordania. È tornato nei territori dopo un'assenza di molti anni. Vuole documentare la vita nei campi profughi, scattare fotogrammi per il suo sito internet, riprendere tutto con la sua piccola telecamera digitale. È in corso la seconda intifada e nel marzo 2002 gli scontri tra palestinesi e soldati israeliani si fanno sempre più cruenti. È il 12 marzo 2002, il giorno prima della sua morte. Alessandro Milan di Radio 24 chiama Raffaele Ciriello sul suo cellulare satellitare. Dunque io insieme con una trentina abbondante di colleghi delle reti televisive, diciamo sia locali che internazionali, mi trovo qui al City Inn Hotel di Ramallah. Io sono qui da più di una settimana e dunque noi ci troviamo in vista proprio del campo di Alamari, che è il campo profughi più grosso che Ramallah, che conta circa 8.000 residenti. Diciamo che intorno a mezzanotte e mezza abbiamo cominciato a sentire il rumore preceduto come al solito agli elicotteri, abbiamo sentito lo sferagliare dei cingoli, dei tank, degli APC, cioè dei trasporti truppe degli israeliani, che hanno preso posizione in tutta la città e quindi intorno anche al campo. Questo a partire da mezzanotte e mezza. Intorno alle due c'è stata una sparatoria non lunghissima ma abbastanza nutrita, proprio in direzione del quarto piano qui dell'albergo, perché evidentemente un po' innervositi magari da qualche flash di troppo o da qualche telecamera di troppo, gli israeliani hanno cominciato a tirare. Diciamo che per una mezz'ora siamo rimasti appiattiti sul pavimento, quasi tutte le stanze che danno sulla strada sono state colpite. Una delle telecamere lasciate in posizione vicino alla finestra è stata centrata da 6-7 proiettili, uno dei quali ha centrato in pieno l'obiettivo. L'operatore per fortuna era di una rete americana, credo, ABC, l'operatore per fortuna non era nei pressi e direi che questi sono stati tutti i danni riportati. Nell'intervista alla nostra emittente, Ciriello descrive la mancanza di sicurezza nei territori per gli inviati. È difficile raccontare la vita dei palestinesi e le operazioni militari degli israeliani. La volontà di tenere la stampa al di fuori e lontana c'è sicuramente, perché io è tutta la settimana che sto inseguendo o che sto cercando di coprire, diciamo, queste operazioni che sono state nei giorni scorsi, prima Nablus, se andiamo indietro di una settimana, poi a Jenin, poi a Tulkarem 3-4 giorni fa, e sistematicamente diciamo, mi è capitato di non riuscire ad entrare, tranne nel caso di Nablus. Sono stato fortunato insieme ai colleghi della televisione italiana, abbiamo trovato una via alternativa, siamo riusciti a entrare nel campo profughi proprio mentre gli israeliani stavano cercando casa per casa i presunti responsabili degli attacchi, ma in genere è evidente la volontà di tenere la stampa lontana, anche se il più delle volte i mezzi per tenerla lontana non sono una sventagliata di mitragliatrici, ma semplicemente un posto di blocco, diciamo, ferreo. Quelli sono i giorni in cui Ramallah è occupata dagli israeliani e il presidente palestinese Arafat arrestato nel suo palazzo. Nella serata dell'altro ieri Sharon ha annunciato, come dire, il via libera, anche se condizionato, per Arafat, e nella serata di ieri, cioè 24 ore dopo, i tank entrano a Ramallah. Da fonti locali, oggi non sono riuscito a lasciare l'albergo, ma da fonti locali mi è parso di capire che la presidenza è sotto assedio, esattamente come è stato fino a qualche settimana fa, quindi credo si sia trattato di una sorta di giro di valzer del premier israeliano, che da una parte ha voluto compiacere l'ala più moderata del suo schieramento e dall'altro lato, cioè 24 ore dopo, si è sentito in dovere di premere invece sull'acceleratore della repressione, come dire, e tant'è che in questo momento la città è paralizzata e credo che le possibilità di muoversi di Arafat siano pari a zero in questo momento. Il 13 marzo 2002, poco dopo questa intervista, Raffaele Ciriello viene ucciso da una raffica sparata da un carro armato israeliano. Tra poco, dopo la pausa, il racconto del giallo e nero su Raffaele Ciriello. Giallo e nero. Per l'uccisione del fotografo freelance Raffaele Ciriello da parte degli israeliani non vi è ancora alcuna giustizia. Gennaro Grimolizzi ci spiega perché non si è voluto fare luce sull'omicidio. Crudele, per certi versi simile, il destino del fotoreporter lucano milanese con quello della giornalista di Rai 3 Ilaria Alpi, assassinata in Somalia e sua grande amica. Per entrambi, infatti, la giustizia tarda ad affermarsi e ad individuare i responsabili delle loro uccisioni. Israele si è rifiutato di collaborare sin dall'inizio con la Procura di Milano per accertare le eventuali responsabilità del proprio esercito e dei soldati che spararono all'inerme Ciriello, reo di essersi trovato al posto sbagliato, nel momento sbagliato e con in mano una piccola macchina fotografica. Quasi inascoltati gli appelli del padre del fotoreporter, Giuseppe Ciriello, che ripetutamente ha chiesto al ministro degli esteri e ai parlamentari di tutti gli schieramenti l'istituzione di una commissione di inchiesta per far luce su quanto accadde quel maledetto 13 marzo 2002. Non si può morire per documentare quello che accade nel mondo, è solito rispondere il padre di Lello quando gli si chiede un parere sulla morte del figlio. L'indagine sulla morte di Raffaele Ciriello è cosa complicata. È difficile stabilire in modo certo chi ha sparato il 13 marzo 2002 a Ramallah, occupata in quei mesi dagli israeliani. L'inchiesta sull'omicidio del fotografo viene aperta fin da subito dai giudici di Milano Giuliano Turone e Massimo Baraldo. Si chiude nel settembre 2003, 15 mesi dopo. Le perizie stabiliscono che Raffaele Ciriello è stato ucciso da 5 proiettili 7,62 NATO in dotazione all'esercito israeliano, sparati da mitragliatrici coassiali montate sui carri armati Merkava. I giudici hanno chiesto di poter ascoltare in rogatoria i soldati in servizio quel giorno, intorno e dentro al carro armato. Il governo di Israele si è rifiutato di collaborare con le autorità giudiziarie italiane. Le autorità di Tel Aviv hanno contestato la competenza dei giudici italiani ad indagare su una morte avvenuta al di fuori dei confini nazionali. Israeli Defense Force, IDF, ha consegnato al nostro Ministero degli Esteri il rapporto finale dell'inchiesta interna all'esercito israeliano. Secondo l'IDF, la morte di Raffaele Ciriello è stata uno sfortunato e tragico incidente. Ciriello sarebbe morto infatti per errore, in quanto i soldati israeliani lo avrebbero scambiato per un palestinese armato, pronto a sparare con un RPG, un lanciagranate che si punta a spalla. L'IDF precisa che non è stato possibile identificare Ciriello come un cameraman e aggiunge che, esaminate tutte le circostanze, da parte dei soldati non c'è stata alcuna infrazione. Ma Giuseppe Ciriello, padre di Raffaele, è convinto che i fatti del 13 marzo 2002 siano invece andati diversamente e fornisce un'altra verità, un'esecuzione, un omicidio mirato. Temendo la reazione israeliana, se ne sono tutti scappati dietro un angolo di una casa in costruzione. Ma il carro armato non ha fatto niente, non ha sparato, non ha fatto. Se avesse sparato i carri armati, la cosa che ho sempre detto a tutte le autorità, i morti sarebbero stati diversi, erano 6 palestinesi, c'era mio figlio, c'era Ricucci, c'era, quindi se ci fosse stata una reazione immediata allo sparo del palestinese, ci sarebbero stati dei morti, dei feriti. Invece il carro armato ha taciuto, però ripeto, i palestinesi, conoscendo la ferocia degli israeliani, e quindi temendo la reazione se ne sono tutti scappati dietro in un angolo di una costruzione. Dopo qualche minuto Ricucci esce perché doveva fare un servizio per il TG7, che è una rubrica speciale del TG1. Per parecchi secondi, pare 55 come stabilito, cronometrato dalla procura nella sua indagine, ha filmato i carri armati. E il carro armato è stato fermo e quieto. Al che, ritirandosi dietro il muro dove c'erano tutti i palestinesi, dove c'era mio figlio, ha fatto segno a mio figlio che, insomma, poteva. Era tutto tranquillo. Appena che si è fatto fuori, non ha avuto nemmeno il tempo di attraversare la strada, perché una sventagliata di mitraglia lo ha ucciso. Giuseppe Ciriello rileva anche i difficili rapporti con il nostro Ministero degli Esteri nell'inchiesta per l'omicidio di suo figlio. Chi mi doveva dare risposta era il nostro Ministero degli Esteri, e il Ministero degli Esteri si era riservato di far conoscere come sono andate le cose, sempre perché nel frattempo è stata nominata la Commissione, la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un'inchiesta sul fatto. E quindi, perdurando l'inchiesta, l'autorità consolare, l'autorità del nostro Ministero degli Esteri, si è riservata di far sapere quel che è successo dopo la chiusura di questa indagine della Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica ha dovuto chiudere l'istruttoria perché, avendo fatto una rogatoria all'autorità giudiziaria israeliana per sapere i nominativi degli occupanti del carro armato, non ha avuto nessuna risposta e quindi ha dovuto chiudere con un nulla di fatto l'indagine giudiziaria. E però, visto che vige una convenzione internazionale tra l'Italia e Israele di assistenza in materia giudiziaria, la Procura della Repubblica, sperando che qualcuno in Israele faccia le indagini che non ha potuto fare, qualcuno, l'autorità giudiziaria, non i militari, ha rinviato gli atti in Israele. Nessun aiuto, nessuna rogatoria, nessuna giustizia. E come sempre, quando la verità tarda ad affermarsi, ci viene incontro la memoria, quella di Bernardo Valli, inviato di guerra, da sempre modello di giornalismo sul campo e nostra coscienza critica. Le sue parole ci ricordano che in un conflitto un fotoreporter rischia più di altri. Per catturare le immagini deve andare là dove si trovano, deve spingersi a volte proprio sul confine che separa la vita dalla morte. Il fotoreporter indipendente, come era Raffaele Ciriello, ucciso a Ramallah, non condivide i rischi con nessuno. Non ha legami protettivi, fa pensare a un soldato di ventura, a un rapporto passeggero con chi gli compra le fotografie e che di solito gliele compra a condizione che dicano qualcosa. Al massimo ha un contratto effimero, il tempo necessario per un reportage. In gergo si dice un assignement. Non è facile far parlare una fotografia, far sì che dica qualcosa. Bisogna che il gesto, l'espressione, la scena inquadrata nell'obiettivo riassuma una situazione e susciti le giuste reazioni. Ripulsione, approvazione, pietà, disgusto, ammirazione, perplessità. In video i fotoreporter che riassumono in un'immagine una guerra, una rivoluzione, una crisi economica, una calamità naturale, un istante di felicità collettiva. In questi casi la fotografia non equivale a un articolo, è un romanzo. Ma per captare quella immagine è necessario andare nel cuore dell'avvenimento. Raffaele Ciriello era uno di questi bravi soldati di ventura.